essere incazzato. Se ancora non ce l'hai, puoi contarci, sta arrivando. Del resto adesso è questo che mi tiene in vita ancora. L'avrei fatta finita se non fosse per mia figlia Viola. Unico pensiero dolce che è rimasto fuori dal disastro. Le doveva stare, invece sono un pazzo che è lontano dal normale. Crede ancora nei suoi sogni. Credevo in una madre, non mi aspetto più che torni. Il mondo dà ragione a chi ci riesce ad adattarsi. Alle sue leggi sono sfregi, alla giustizia che non sempre reggi. Accetto il male, succede, va bene, ma dove cazzo sono i pregi? Se troppi cacci in culo fanno il cane rabbioso che sono. Paio la mia rabbia con la bava alla bocca, frastuono per sovrastare, non sentire più il dolore che la gente si regala ormai senza alcuna ragione. Senza troppi pensieri, troppe parole, ben confezionata e plasticata con l'offerta, lancio nuova collezione. Condizionamento mentale della tua prole incanalata forza in quella direzione. E nuove guerre per i soldi e soldi per le guerre. Ricchi sempre più ricchi con figli coltivati in serie in serre. La popolazione inerme muore nuda come un verme. Non si ribella, non dice, non vede, non sente. In atto la catastrofe, mani in alto. Non sanno più che cosa toglierci, però lo fanno. Loro il tornaconto a fine mese, noi la fanno. Il premio produzione, la beffa oltre al danno. Fa schifo il posto dove mi trovo. Più pensi che si possa fare, più io mi sento fuori luogo. C'è sempre un buon motivo qui per vivere incazzato. Questo è il mio ruolo, sono sbagliato e fuori luogo. Fa schifo il posto dove mi trovo. Più pensi che si possa fare, più io mi sento fuori luogo. C'è sempre un buon motivo qui per vivere incazzato. Questo è il mio ruolo, sono sbagliato e fuori luogo. C'è più di un motivo, fudu, per essere incazzato. È uno schifo, schifo, scrivo per non esservi a sue fatte. Quando arrivo negativo è perché mi ci ho portato. Se persino il tuo vicino vuol far soldi dal tuo stato, si vive da buffino, in più si trucca ogni contratto. Del fottendo il prossimo che si diventa il più stimato. Il massimo esponente di sto show dannato mi sembra lo stato, sì. Per questo fatto io lo foto anche se mi ha castrato. Chi mi ha incastrato ben studiato, truffe mi ha infognato. Ha fatto tutto spalleggiato da un filo avvocato. Io ho covacciato come cato, so che si ho sbagliato, sì. Ma approfittarsi del mio errore per far soldi a sbaffo, sì. Lo trovo inappropriato, proprio esagerato, improprio. Se puoi pagare zero tribunale, troppo loffio. Non puoi pagare assalto, la fedina penale, un soffio. Tanti la sociale per dimenticare il colpo doppio. Prigione mentale che t'annebbia tipo fumo doppio. Sistema mortale brucia la miccia fino al nostro scoppio. Occhio che per denaro è come la borsa di Tokyo. Per interessi poca di sopra e tutti gli altri di sotto. Ormai sono un po' tutti manager con loro prodotto. Maneggiano gli inganni tipo corona scattando le foto. Infatti nel voto morale di oggigiorno è noto. Il fare guadagni sulle spalle degli altri un mo' rotto. Questo silenzio coi deliri d'assenso nei quali sentenze. L'unica razza make un pass sarebbe bloccare lo scempio. Ma visto l'esempio nulla cambia in nessun modo. Questo è il mio ruolo, essere sbagliato e fuori luogo. Fa schifo il posto dove mi trovo. Più pensi che si possa fare, più io mi sento fuori luogo. C'è sempre un buon motivo qui per vivere incazzato. Questo è il mio ruolo, sono sbagliato e fuori luogo. Fa schifo il posto dove mi trovo. Più pensi che si possa fare, più io mi sento fuori luogo. C'è sempre un buon motivo qui per vivere incazzato. Questo è il mio ruolo, sono sbagliato e fuori luogo.